not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. Do not stand at my grave and cry when fight for freedom, it still goes on. I took up my gun until freedom's day. I pledged to fight for the IRA in Armageddon. Searches were a British crime, degraded me, but they could not see I'd suffer this to see I. Ciao a tutte, ciao a tutti. Continuiamo l'approfondimento con la compagna che è stata recentemente in Irlanda del Nord. Ciao. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. E le chiediamo prima di tutto due cose. Quali fossero e perché ci fossero, quali fossero le ragioni delle manifestazioni che si dovevano svolgere in Irlanda del Nord nei giorni intorno alla Pasqua, e poi in particolare ci interesserebbe che tu ci parlassi di quello che c'è al di là del problema della Brexit, della questione della Brexit che adesso viene molto agitata. Intanto, vabbè, grazie per questo ulteriore approfondimento. Ho già fatto una prima parte con le compagne e i compagni di Radio Cane su quelli che sono stati i fatti di Creggan del 18 aprile, e quindi non mi sto a ripetere su Creggan, il Bogside e la storia di Derry e del colonialismo britannico, perché chi vuole appunto trova tutti questi aspetti su Radio Cane. È importante sottolineare, appunto, come giustamente mi chiedi, di che tipo di celebrazioni si trattasse, perché è, diciamo, un po' la madre di tutte le celebrazioni in Irlanda, quella di Pasqua, perché ricorre l'anniversario dell'insurrezione della Pasqua del 1916, cioè quando dal 24 al 29 aprile durò questa prima Repubblica Irlandese. Venne fatta la prima dichiarazione della Repubblica, naturalmente gli insorti vennero poi condannati a morte, soprattutto le figure più di spicco vennero internate e fucilate nel carcere di Kilmehem a Dublino. Però per un paese come l'Irlanda, che come dice uno slogan ricorrente, ha subito otto secoli di occupazione e ha portato avanti otto secoli di resistenza, la memoria è appunto un dato fondamentale. Per chiunque sia stato, in particolare nell'Irlanda del Nord, è chiara l'importanza del mantenimento della memoria, sia attraverso celebrazioni come queste dell'insurrezione di Pasqua, ma sia attraverso tantissime ricorrenze. La prossima estate, ad esempio, sia ad Derry che a Belfast ricorreranno i 50 anni, ad Derry della battaglia del Bogside e della conseguente nascita della Free Derry, cioè della comune della libera Derry in autogestione nei quartieri in particolare del Bogside e di Creggan, così come a Belfast ricorreranno i 50 anni dal ferocissimo pogrom che venne fatto contro la popolazione cattolica repubblicana proletaria, soprattutto nella zona intorno a Bombay Street, che era una zona proletaria e sottoproletaria. Ecco, quindi le celebrazioni, le ricorrenze, ovunque ci si muova in Irlanda del Nord si trovano targhe che ricordano, ma non targhe lasciate lì a impolverarsi, cioè nel giorno della ricorrenza c'è sempre una iniziativa ufficiale dove c'è quella targa o quel memoriale. Ma così come anche i murales che stanno in giro per tutte le sei contee che compongono la cosiddetta Irlanda del Nord, rappresentano una trasmissione di memoria. I musei, c'è un bellissimo museo a Belfast, un piccolo ma denso museo sulla storia proprio della lotta repubblicana e sul ruolo che i combattenti, anche una volta messi in prigione, svolgevano nel portare avanti questa lotta. E tra l'altro questo museo è stato progettato e messo in piedi da una donna, una compagna, che a sua volta è stata una prigioniera politica. E poi si moltiplicano le pubblicazioni, insomma, diciamo che per me, che vengo dall'Italia e che dovrebbe essere un paese che ricorda la resistenza antifascista, fa molto effetto vedere con quale grande capacità nelle sei contee, nell'Irlanda del Nord in particolare, viene ricordata la resistenza contro la colonizzazione britannica, e mi fa vedere anche i limiti della nostra memoria qui. Teniamo anche conto che questo mantenimento della memoria, in particolare nelle sei contee, poi l'insurrezione di Pasqua viene celebrata in tutta l'isola, quindi anche nella parte che è repubblica oggi, no? Certo. La cosiddetta Eire, ecco, perché naturalmente anche quella repubblica nasce da quella insurrezione. Certo, però certo. Ecco, in particolare nel Nord Irlanda mantenere la memoria significa mantenere la viva la lotta e la resistenza contro il continuo tentativo di sterminio della popolazione da parte dell'occupante britannico. Parlo di sterminio non a caso perché nella metà dell'Ottocento ci fu un periodo terribile durato 5 anni che viene chiamato nei libri di storia ufficiale la Grande Carestia, cioè si narra di questo fungo che attaccò le coltivazioni di patata e poi altre coltivazioni e ridusse alla fame la povera gente irlandese. In realtà studi recenti, e io ho qui con me un bellissimo opuscolo che viene distribuito dall'Associazione degli ex prigionieri politici, degli ex prigionieri di guerra repubblicani a Derry, si parla di Irish Holocaust, cioè di olocausto irlandese. Non si è trattata di una carestia, ma di un progetto perfettamente definito di sterminio della popolazione povera e cattolica irlandese. Questo alla metà dell'Ottocento. Ci sono stati più di 5 milioni di morti e 1 milione di emigrati, in particolare negli Stati Uniti. Un altro elemento riduzione della popolazione, quindi riduzione della parte conflittuale della popolazione si ebbe negli anni 50 del secolo scorso, quando le condizioni economiche del dopoguerra erano tragicissime in Irlanda e ci fu una grande emigrazione, in particolare in Inghilterra. Su questo si trova su YouTube un bellissimo documentario proprio sugli irlandesi dimenticati, cioè quelli che sono stati costretti ad emigrare, che sono emigrati praticamente nel centro dell'impero coloniale britannico. Ora io vorrei come sempre chiarire che parlo di protestanti e di cattolici, ma non si tratta di una questione di tipo religioso, ma di una questione di classe. Ancora oggi, purtroppo, parlando con compagni e compagne, mi è capitato di sentir dire: eh sì, vabbè, ma sono cattolici. Ora, come mi disse un compagno a Belfast l'anno scorso, un ex prigioniero politico, se tu ti definisci atea, la domanda che ti viene fatta è: ma sei atea cattolica o atea protestante? Cioè, bellissima. Stai della lotta di classe, no? Quindi certo, non è un problema di tipo religioso, anche perché sappiamo bene che allo scoppio dei Trouble, quindi di questi 30 anni di durissimo conflitto che ci fu nell'Irlanda del Nord, in particolare proprio nelle sei contee, la borghesia cattolica compradora della Repubblica d'Irlanda invece se ne stette buona a portarsi avanti i suoi interessi, quindi ci fu soprattutto inizialmente più alleanza da parte dei proletari cattolici e protestanti con gli insorti irlandesi del Nord Irlanda, più che non da parte della borghesia cattolica. Ecco, questo quindi teniamolo bene a mente, perché così togliamo tutti i dubbi e la smettiamo di far persistere questa narrazione tossica di quello che è la questione irlandese. Ecco, venendo alla questione della Brexit, come ho già cercato di spiegare nell'altra intervista, ma qui cerco di andare un pochino più a fondo, la Brexit comporterebbe il ristabilire queste oltre 300 miglia di confine, che adesso è un confine praticamente inesistente, invisibile, tra le sei contee e il resto dell'Irlanda, ma soprattutto significherebbe la fortissima militarizzazione di quella zona, perché se solo dovesse venir ricostituito un hard border, quindi un confine fortemente controllato, rigido, verrebbero rimessi checkpoint che c'erano un tempo, e la presenza di questi checkpoint naturalmente significherebbe il riattivarsi di una serie di azioni di guerriglia contro la presenza appunto di questo confine e di militari al confine. Un'adeguata reazione, certo. Esatto, non è un caso che nel marzo scorso il governo britannico abbia mandato più di 700 ufficiali del MI5, che è uno dei corpi, insomma uno degli uffici dell'intelligence britannica, a Belfast. Quindi questo ci dice tutto, proprio per incominciare a lavorare alacremente su un progetto di tipo anti-insurrezionale che potrebbe diventare necessario nel momento in cui dovesse essere ristabilito questo hard border. Ma non bastasse questo, proprio in queste settimane in Gran Bretagna si sta discutendo all'interno del governo, ma non stanno riuscendo a trovare una soluzione, comunque si sta discutendo di una possibile amnistia che riguarderebbe circa 200 ex membri delle forze di sicurezza al momento sotto inchiesta. Questi sono 200 personaggi che sono stati mandati nelle 6 contee durante i 30 anni dei Trouble e che si sono resi responsabili delle stragi dei civili repubblicani. Perché una delle strategie, diciamo, intimidatorie controinsurrezionali del governo britannico era proprio quella di uccidere i civili. E tra questi civili molti bambini e adolescenti, ripeto, come strategia intimidatoria. Se andiamo a vedere dei 3.500 e passa morti che ci sono stati nei 30 anni di Trouble in Irlanda del Nord, i civili repubblicani, quindi cattolici repubblicani, rappresentano quasi il 34% delle morti totali. Ora, io do questi dati che possono sembrare noiosi, ma se ascoltati con attenzione danno il quadro della situazione. All'epoca i repubblicani cattolici rappresentavano un terzo della popolazione delle 6 contee, no? Che erano state ritagliate proprio in modo da avere una stragrande maggioranza protestante. In questo terzo della popolazione il numero di morti rappresenta 3/5 dei morti totali dei 30 anni di Trouble. Quindi questo ci dice la quantità di civili che sono stati ammazzati. Di questi quasi il 90% è stato ucciso dalle forze dello Stato britannico. E qui però, ecco, quando parliamo di forze dello Stato britannico, la questione si fa abbastanza oscura, nel senso che noi sappiamo delle azioni, ed è inutile che stia io a ripetere ora, dei paramilitari lealisti come l'Ulster Volunteer Force, i Loyal Volunteer Force, eccetera, no? Quindi questi armati fino ai denti di fondo poi dal governo britannico, e non è facile distinguerli dalle forze di sicurezza britanniche perché spesso agivano in concerto. E la cosa interessante è proprio questa, cioè quando dico non è chiara la distinzione è perché queste stragi sono state effetto delle politiche controinsurrezionali, ma anche delle fortissime connivenze e delle coperture che ci sono state da parte britannica in quei 30 anni. C'è un libro molto bello di Paul Larkin del 2003 che si intitola A Very British Jihad. È un testo che parla delle collusioni, in particolare a partire dalla metà degli anni 70, tra proprio le forze paramilitari unioniste, lealiste, insomma quelle protestanti, diciamo così per capirci in questa estrema semplificazione, e le forze di sicurezza britanniche. E le relative cospirazioni e coperture che ci sono state in Nord Irlanda. È interessante che l'autore utilizzi questo termine jihad, cioè la guerra santa, e lo rivendichi anche perché appunto lui vede una continuità tra la crociata protestante di Cromwell e il periodo dei Trouble, di cui abbiamo in mente un personaggio centrale come il reverendo Paisley, ci sono molti video suoi, lui morì nel 2014 se non ricordo male, che è il, di fondo un continuatore degli interessi di classe lealisti protestanti, fondatore dell'UDP, che è al momento il partito unionista, quindi protestante, lealista, che ha anche nelle ultime elezioni di qualche giorno fa avuto la più alta percentuale di voti in Irlanda del Nord, ma è anche fondatore, più che altro organizzatore dei corpi paramilitari. Molto interessante, sì. Molto interessante. Molto, per me questo libro è stato veramente illuminante. Larkin parla in questo testo di questo gruppo Unison, che è un gruppo che possiamo in qualche modo assomigliava a Gladio, cioè a quella rete Stay Behind che era stata costituita in Europa con compiti antinsurrezionali. Appunto, in Gran Bretagna si chiama Unison, poi Civil Assistance, e aveva lo scopo di proteggere la Gran Bretagna dal caos di eventuali rivoluzionari e anarchici. Viene fondata nel 73 da un deputato, George Kennedy Jr., che era capo del servizio segreto MI6, cioè dell'intelligence militare, la sezione 6, e di cui faceva parte anche come ufficiale senior l'ex capo del comando generale settentrionale della NATO. Guarda caso, guarda caso. Troviamo sempre le collezioni di personaggi incredibili, no? in queste situazioni. Di questo gruppo faceva parte anche Ross McWhirter, che diciamo è famoso per essere stato il fondatore con suo fratello del Guinness dei primati, ma questo invece era un orrendo personaggio fortemente legato all'apartheid in Sudafrica. E guarda un po', i carri armati Saracens e anche gli Humber Pigs, ma soprattutto i Saracens che troviamo in Irlanda del Nord, sono gli stessi che troviamo in Sudafrica in quegli anni, come gli interessi la vendita di armi, eccetera, stia sempre dietro queste questioni. Questo personaggio, Ross McWhirter, aveva scritto un libro sulla salvaguardia del Regno Unito che aveva presentato al governo, in cui sosteneva che gli irlandesi che si recavano in Gran Bretagna dovevano registrarsi alla polizia appena arrivavano e fornire, cioè si tenga conto che era tutto United Kingdom, quindi era lo stesso Stato in teoria, no? Però dovevano fornire anche le proprie fotografie firmate quando affittavano appartamenti o prendevano in affitto stanze in albergo o ostelli. Costui aveva addirittura offerto una ricompensa di 50.000 sterline per ottenere delle informazioni su degli attentati repubblicani, e Sava Sandir è stato ammazzato nel 75 a Londra dall'IRA, cioè dall'esercito repubblicano irlandese. Ma non solo, sempre Larkin in questo libro sul jihad britannico sottolinea come nel Royal Ulster Constabulary, che era la forza di polizia che è stata sciolta solo dopo gli accordi di pace del 98, è stata sciolta mi pare intorno al 2000-2001, aveva una altissima percentuale di lealisti al suo interno, erano più del 90%. Questi lealisti all'interno del Royal Ulster Constabulary venivano incoraggiati dallo Stato a sentirsi come un esercito modello sotto copertura per condurre una guerra segreta per la soppressione degli irlandesi e in difesa della religione protestante. Ecco qui appunto il concetto di jihad, ancora una volta. E aggiunge l'autore, parlando dei decenni 70, 80 e 90 del secolo scorso, Leggo testuale perché è importante questo passaggio. Né i militari protestanti, né i servitori civili, né le spie, né le alte sfere militari avrebbero accettato qualcosa che non fosse altro che la totale sconfitta degli irredentisti irlandesi prima che potesse essere preso in considerazione un processo di pace. Lo stesso autore, dopo aver parlato dei training organizzati dai servizi di sicurezza britannici per i paramilitari lealisti, aggiunge testuale che le armi fornite ai lealisti da parte di agenti pagati dallo Stato britannico ora giacciono in discariche controllate da forze del potere contrarie alla soluzione del conflitto nord-irlandese. Dunque, questo libro è un libro del 2003. La situazione, appunto, come ho detto oggi, è quella di 700 membri dell'intelligence mandati a Belfast proprio in previsione della Brexit. Ma non bastasse questo, c'è anche, come dicevo prima, questo nodo dell'amnistia. Allora, stanno venendo al pettine un sacco di questioni ultimamente che riguardano in particolare i militari britannici e ancora più in particolare i parabritannici. Prendiamo il caso di quello che viene definito soldato F, viene chiamato con questa sigla. Ora anche qui notiamo come le coperture sono importanti, perché se noi andiamo a vedere ad esempio dei documentari dove vengono intervistati i militari che erano presenti nelle sei contee nei 30 anni di Trouble, nella stragrande maggioranza dei casi sono intervistati in controluce in modo che non li si riesca a vedere, cioè viene coperta la loro identità e vengono presentati con un nickname, con un soprannome che non è il loro nome reale. Ora, questo soldato F è uno dei responsabili del massacro della Bloody Sunday del gennaio del 72, no? Quando ci fu quella grande manifestazione a Derry che partiva proprio dal quartiere Cregan, dove ci sono stati appunto gli scontri e gli disordini e ci ha lasciato la vita questa giornalista lo scorso aprile, questa grande manifestazione per i diritti civili contro l'internamento senza processo e appunto arrivati diciamo nella parte pianeggiante di Derry, da dietro un muro saltarono fuori questi parà e fecero questa strage. Tra costoro c'era anche questo soldato F, per il quale mese scorso ci sono state enormi mobilitazioni in sua difesa, centinaia e centinaia, si parla di migliaia di motociclisti sono andati sotto il Parlamento a Londra e a Belfast, dove c'è a Stormont il Parlamento dell'Irlanda del Nord, proprio per dire noi siamo dalla sua parte, non deve essere processato. Ora, a noi i processi non interessano e sappiamo che non è quella la giustizia, però ci sono queste associazioni tipo i Relatives for Justice che chiedono la verità perlomeno su quelle uccisioni di civili, dei loro parenti e soprattutto sulle responsabilità del governo britannico, non del singolo militare. E comunque ecco, su questo soldato F c'è una grandissima mobilitazione, addirittura Port Down, che è un paesello nell'Irlanda del Nord, sempre nell'aprile scorso è comparso uno striscione sulla strada principale che dice con la scritta Port Down sta dalla parte del soldato F. Il ministro della difesa britannico proprio recentemente ha detto ma è impossibile risalire ai nomi dei responsabili e quindi è inutile sostanzialmente fare queste inchieste. Un altro caso caso è quello del soldato B, ma faccio questi due casi solo come esemplari, certo. Perché in realtà, ripeto, sono più di 200. Il soldato B fece parte dell'operazione Motorman, che è l'operazione militare con cui venne sostanzialmente devastata l'esperienza della Friedberry. Irruppero a Creggan e nel Bogside 1500 soldati con 300 carri armati nel luglio del 72. Questo soldato B è stato individuato come colui che ammazzò due ragazzini giovanissimi, in particolare a uno di loro sparò due volte alla testa. Questo era comunque il comportamento quotidiano. Va detto che tra il 69 e il 72 ci sono, è una prassi quella delle stragi in Irlanda del Nord. Pensiamo, prima citavo il pogrom a Belfast, che è un pogrom che avviene con l'appoggio, con lo sguardo, come dire, accondiscendente della polizia e dei militari, un pogrom fatto dai lealisti. Venne dato fuoco a centinaia di case, cioè la popolazione, tantissime famiglie costrette a scappare, veramente una cosa terrificante. Sì, ho visto dei video in cui si ricordano questi ragazzini, o comunque ragazzi molto giovani, tutti sui 14, 15, 13, ma sono tantissimi. Cioè c'è una percentuale di ragazzini e ragazzine uccisi che è molto alta. Sì, faceva parte proprio della strategia terrorista nei confronti della popolazione, perché poi appunto il vero terrorista è stato, e sono i veri terroristi, sono stati i governi britannici che si sono succeduti. Poi dicevo, proprio è un periodo di stragi quello, c'è la strage del quartiere Ballymurphy a Belfast nell'agosto del 71, 11 morti, persone X a cui i cecchini sparavano durante questa operazione Demetrius, che era appunto un'operazione di rastrellamento. Vennero portate via dalle case 7.000 persone appartenenti alla popolazione repubblicana e oltre 300 vennero arrestati e detenuti senza processo, torturati, eccetera. In carceri quali il tristemente famoso carcere di Long Cash, quello degli H-Block, dei blocchi H, no? Dove ci fu anche il grande sciopero della fame di Bobby Sands e degli altri. Ecco, allora questo personaggio, questo soldato B, durante questa, ho fatto confusione, il soldato B ce l'abbiamo, perché poi hanno tutti sti nomi queste operazioni, soldato B durante l'operazione Motorman, mentre appunto questi 11 civili a Belfast nel quartiere Ballymurphy vengono ammazzati dai cecchini mentre è in corso questa operazione di rastrellamento. Poi va bene, nel gennaio 72 si ha la Bloody Sunday a Derry. In qualche modo, diciamo, il tempo che tra 69 e 71 l'IRA, cioè l'esercito repubblicano irlandese, si riorganizzi, e nel 72 troveremo in questo esercito repubblicano ben 30.000 militanti. A quel punto naturalmente cambiano anche i rapporti di forza, per cui diventa vera e propria guerriglia, diciamo, usiamo questo termine, per cui riescono a cacciare fuori dai quartieri i militari, a tenerli lontani, eccetera, eccetera. Però ecco, tutto ciò che è successo comunque nei 30 anni di Trouble, non dimentichiamo anche la strage terribile che ci fu al cimitero di Milltown, il cimitero di Belfast, durante i funerali dei tre combattenti che vennero uccisi mentre erano a Gibilterra disarmati, vennero ammazzati a sangue freddo. Durante il loro funerale un lealista entrò nel cimitero, fece esplodere delle bombe, insomma successe un delirio con vari morti, moltissimi feriti, ma immaginiamoci la folla incredibile che c'era a quel funerale. E quindi ecco, questo era ricorrente, no? E quindi amnistiare, diciamo, questo progetto di amnistia significa appunto coprire, mettere una pietra sopra, e lo dico da persona che nei processi non ci crede, però ripeto, la verità storica è la verità storica, no? E allora che vengano fuori le responsabilità. E invece no, si vuole coprire tutto quello che è stata la ferocia di oltre 30 anni di vessazioni continue, di militari che irrompevano nelle case, soprattutto nei quartieri più proletari dei repubblicani, dei cattolici repubblicani, distruggevano le case, gli portavano via i soldi, interi quartieri sotto coprifuoco dove la gente moriva perché non entravano gli alimenti, non entravano le medicine, i bambini non avevano latte, cioè, è stato proprio un progetto di sterminio della popolazione portato avanti per 8 secoli sicuramente, ma diciamo nel secolo scorso, o meglio dalla metà dell'Ottocento alla fine del secolo scorso in modo particolare. Beh, allora, penso determinato, organizzato e sistematico, questo è. Assolutamente, assolutamente. La cosa incredibile, appunto, come dicevo, all'interno dell'attuale governo britannico, che vabbè, insomma, c'ha già molte questioni aperte che si scannano, è stata giustificata questa proposta di amnistia dicendo no, ma questa proposta di legge riguarda solo gli ultimi 10 anni, come a dire non riguarda il periodo dei Trouble, certo, ma riguarda invece ciò che i militari britannici hanno fatto in Iraq e in Afghanistan e negli altri teatri di guerra in cui sono stati presenti in questi ultimi anni, no? Come a dire che appunto quando si va nei paesi altri, in quelli che vengono rappresentati come paesi sottosviluppati, di fondo insomma si può fare di tutto e di più, però poi esiste come dire anche questa amnistia che in qualche modo ti garantisce ulteriormente. E allora, per non dilungarmi oltre, avrei tantissime cose da dire, ma magari ne avremo occasione di riparlarne nei prossimi mesi, tanto io continuerò a tornare in Irlanda perché qui tutti si occupano di questioni molto lontane, non ci si accorge che c'è ancora una colonia britannica nel cuore dell'Europa. Certo. E forse il problema è che, come al solito, ci piacciono le cose quando sono più lontane possibile da noi, perché quando sono troppo vicine ci chiamano direttamente in causa. Bisogna farci conti e prendere posizione. Esatto, no, allora invece è semplice dire ah no, ma vabbè, sono cattolici, ah no, ma vabbè, però questo trattato di pace, ah no, vabbè, le case di Belfast e di Derry devastate da questi 30 anni di Trouble sono state ricostruite coi soldi dell'Unione Europea, e però la gente ha preso i soldi, cioè tu capisci che non avevano più la casa, gliela avevano bruciate, distrutte eccetera, sono state ricostruite, devo dire, io sono contenta per loro che possano vivere oggi in case decenti, minime ma decenti comunque. Però appunto, ecco, questi sono anche tutti dei luoghi comuni, perché noi che abbiamo il culo al caldissimo vogliamo che gli altri si espongano al 2000% no, della propria esistenza, certo, invece per essere dei veri rivoluzionari. Questo, scusa, l'angolo acido, ma a volte è bene ricordarcelo. Vorrei però concludere appunto dicendo perché è importante capire oggi che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere nelle sei contee, nell'Irlanda del Nord, al di là di quella che è la situazione specifica là. Ma intanto, ecco, andare a vedere come si stanno muovendo le cose e andare proprio sul terreno serve a capire come si stia organizzando a livello europeo la gestione antinsurrezionale. Il Regno Unito è sempre stato all'avanguardia in questo, no? Ha una lunga tradizione. Esatto, e a me viene in mente appunto quel testo della NATO, Urban Operation 2020, poi 2020 è l'anno prossimo e non siamo. Sì, tra l'altro, no? Ogni tanto ecco. ci penso anch'io. Per cui, ecco, quindi capire questo e quindi approfondire quel laboratorio, le colonie sono sempre dei laboratori, approfondire l'Irlanda del Nord come laboratorio delle politiche controinsurrezionali è importante per capire anche meglio che cosa potrebbe succedere o sta già succedendo nei nostri territori. E poi un'altra questione importante, secondo me, che ci fa capire la storia della resistenza repubblicana nell'Irlanda del Nord è quanto sia stato funzionale coprire quel conflitto di classe dietro una questione religiosa. Ed è importante oggi perché non è un caso che rispetto alle migranti, a quello che è stato definito il clandestino e che è e rimane un emigrante peraltro, certo, e non clandestino, questi sono aggettivi che veramente lasciamo volentieri fuori dai nostri discorsi, però ecco, questa costruzione di fondo vale per il proletario, la proletaria che arrivano qui da paesi di religione islamica, cioè non c'è un attacco di tipo religioso contro l'emiro arabo o contro appunto quei ricchi sceicchi a cui non solo vendiamo le armi, ma gli vendiamo anche le nostre città. Metà Milano è in mano ormai all'emiro di non mi ricordo più dove, se del Qatar o che. Se andiamo a vedere per esempio le cave di marmo di Carrara, più della metà di quelle cave sono ormai di proprietà della famiglia Bin Laden. Sì. Dico, ripeto, Bin Laden. Sì, sì. Ecco, allora capiamo che cosa significhi oggi l'uso del termine terrorista legato ad un elemento religioso, cioè che cosa copre questo elemento? Copre la lotta di classe che assolutamente non deve emergere, non deve trasparire. Ma nell'Inghilterra, in questa Gran Bretagna, che è molto amante, ha una grande tradizione di corse dei cavalli e di una tradizione ippica, i grandi eventi sono ormai tutti sponsorizzati da qualcosa di da qualche sceicco arabo, e sono ed è ufficiale questa sponsorizzazione. Qui gli va benissimo. Sì. Per cui insomma sono molto chiare. Ecco, tra l'altro, a proposito di questo, mentre ero a Belfast, dei ragazzi stavano facendo un murale molto bello su cui era raffigurata una donna diciamo genericamente musulmana, comunque con il velo in braccio un bambino, poteva essere siriana, poteva essere di altri teatri di guerra in Medio Oriente, poteva essere una yemenita, e questa donna veniva bombardata da un ricco sceicco che incombeva su di lei e che le lanciava contro dei missili a stelle e strisce con una mano e con l'altra mano missili che rappresentavano la Union Jack, cioè la bandiera britannica. E direi che, ecco, perché poi c'è anche, prima dicevo, l'importanza della memoria storica, ma i murales, soprattutto su un particolare muro di Belfast, vengono anche in continuazione aggiornati. Ed è interessante perché è una forma di trasmissione orale, visiva, di una memoria e di testimonianza che oltrepassa tutte le lingue e tutte le differenze culturali che ci possono essere. Certo. Io questo lo trovo bellissimo e ripeto, come dicevo all'inizio, a me andare lì fa molto riflettere sugli errori che sono stati fatti in Italia rispetto alla memoria della Resistenza. Certo. Errori di cui in particolare l'ANPI ha una grossissima responsabilità, e mi fermerei qua. Grazie, guarda, sei stata di una chiarezza, è stato un contributo estremamente interessante. Io spero che tu ce ne vorrai fare degli altri, perché è importantissimo un collegamento di tipo, cioè l'internazionalismo ormai ha perso molto di quel significato che aveva un tempo, e come strumento per lottare qui a casa nostra, e quindi penso che questo tipo di contributi non solo sia interessante, ma è fondamentale per la lotta che portiamo avanti anche noi. Noi ti ringraziamo tantissimo. Guarda, credo, così per dire un'ultimissima cosa, che proprio di fronte a quella che è stata chiamata la globalizzazione, perdere di vista l'internazionalismo sarebbe veramente stupido e perdente. Butto lì questa cosetta, magari ne parleremo poi in un'altra occasione. Ma l'effetto Brexit si sta facendo sentire anche alle Malvinas, che sono le famose isole argentine sotto dominio britannico. Anche loro fanno parte di UK, del Regno Unito, no? Certo. Le Falkland vengono chiamate infatti dagli inglesi. Ecco, anche lì si sta facendo sentire l'effetto Brexit, e quindi non è ormai, non è, come dire, guardare uno specifico territorio soltanto, ma è guardare proprio alla rete che l'impero britannico in primo luogo, ma sulle sue orme poi il capitale neoliberista ha, quello che ha messo in piedi, e vedere come oggi appunto la Brexit, che ci può non interessare di fondo, chi se ne frega se il Regno Unito esce dall'Unione Europea e chi se ne frega dell'Unione Europea, no? Però riuscire a leggere la Brexit come dispositivo analizzatore, certo, di una serie di contraddizioni e di irrisolti legati a secoli di dominio imperialista, e invece ci dice proprio tanto, così come ci dice tanto la volontà di coprire appunto tanto i militari e le forze dello Stato britannico, che ha compiuto gli stermini di civili in Nord Irlanda e anche in Afghanistan e in Iraq, eccetera. Cioè, capire questo oggi ci fa avere uno sguardo, come dire, complessivo per leggere la realtà, e se no continueremo a guardarci la punta dei nostri piedi. Esatto. Guarda, grazie tantissime, e aspettiamo la prossima volta con estremo interesse. Ti aspettiamo e grazie ancora. Ciao. Un abbraccio, ciao, ciao a tutte, ciao, ciao. Ah, then tell me, Sean O'Farrell, tell me why you're hurrying so. Hush, my boy, oh, hush and listen. And his eyes were all aglow. I bear orders from the captain. Get you ready, quick and soon. For the pikes must be together at the rising of the moon. Ah, then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. One thing more for signal token. Whistle up the marching tune. With your sword upon your shoulder at the rising of the moon. Rumors passed along the valley like a banshee's lonely croon. And a thousand blades were flashing at the rising of the moon. All along the singing river, that dark mass of men were seen. Far above their shining weapons hung their own immortal green. Death to every foe and traitor. Bar and strike the marching tune. And hurrah, me boys, for Ireland. 'Tis the rising of the moon. Well, they fought for poor old Ireland, and full bitter was their fate. Ah, what glorious pride and sorrow